Sezione settima di Odi barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitare il sito LibriVox.org. Alla stazione in una mattina d'autunno. Oh, quei fanali! Come si inseguono accidiosi là dietro gli alberi, fra i rami stillanti di pioggia, sbadigliando la luce sul fango, flebile, acuta, stridula, fischia, la vaporiera d'appresso, plumbeo il cielo e il mattino d'autunno, come un grande fantasma ne intorno. Dove e a che move questa che affretta sia carri oscuri, ravvolta e tacita gente, a che ignoti dolori o tormenti di speme lontana? Tu pur pensosa, Lidia, la tessera al secco taglio dai della guardia e al tempo incalzante i begli anni dai. Gli istanti gioiti e i ricordi van lungo il nero convoglio e vengono, incappucciati di nero i vigili, com'ombre una fioca lanterna hanno e mazze di ferro e di ferri, freni tentati rendono un lugubre rintocco. Di fondo all'anima un eco di tedio risponde, doloroso che spasimo pare, e gli sportelli sbattuti al chiudere paiono oltraggi, scherno par l'ultimo appello che celere suona, grossa scroscia su vetri la pioggia. C'è il mostro conscio di sua metallica anima, sbuffa. Crolla, ansa, e fiamme gli occhi, sbarra, immane pel buio, getta il fischio che sfida lo spazio. Va l'empio mostro con traino orribile, sbattendo l'ale gli amor miei portasi, e la bianca faccia il bel velo, salutando scomparne la tenebra. O viso dolce di pallor roseo, o stellanti occhi di pace, o candida tra floridi ricci inchinata, pura fronte con atto soave. Fremea la vita nel tepid aere, fremea l'estate quando mi arrisero, e il giovine sole di giugno si piacea di baciar luminoso intra i riflessi del crin castanei la molle guancia, come un'aureola. Più belli del sole i miei sogni ricingean la persona gentile. Sotto la pioggia, fra la caligine, torno ora e ad esse vorrei confondermi. Barcollo com'ebro e mi tocco, non anch'io fossi dunque un fantasma, o qual caduta di foglie gelida, continua, muta, greve sull'anima. Io credo che solo, che eterno, che per tutto nel mondo è novembre. Meglio a chi il senso smarrite l'essere. Meglio quest'ombra, questa caligine. Io voglio adagiarmi in un tedio che duri infinito. Fine della sezione settima, registrata da Liber il 27 settembre 2020.